Rock Wave, l'onda del rock. Minuti, ben trovati, buona serata. Oggi mercoledì 1° di agosto 2012, appuntamento con la musica dal vivo all'interno della programmazione di Blu Radio Veneto. Penso che questa sia una delle poche trasmissioni che non va in vacanza qui nella programmazione di Blu Radio Veneto. Ci saremo anche durante tutto il mese di agosto. E allora io direi subito di andare a presentare gli ospiti di questa sera. Questa sera giochiamo in casa oggi, perché avremo ospite l'artista padovano Lele Zambon insieme ai suoi collaboratori, e dall'altra parte del vetro vedo già pronto anche Maurizio Calzavara, sarà soprattutto lui il conduttore del nostro appuntamento. Ragazzi, io vi passo subito la linea, so che c'è già qualcosa di particolare da far sentire ai nostri ascoltatori. Siete pronti? Abbasso la base e lascio la parola a voi. La prima volta che incontrai Dean fu poco tempo dopo che mia moglie ed io ci separammo. Avevo appena superato una seria malattia, della quale non mi prenderò la briga di parlare, se non che ebbe qualcosa a che fare con la triste e penosa rottura e con la sensazione da parte mia che tutto fosse morto. Con l'arrivo di Dean Moriarty ebbe inizio quella parte della mia vita che si potrebbe chiamare la mia vita lungo la strada. Prima di allora avevo spesso sognato di andare nel West per vedere il continente, sempre facendo piani vaghi e senza mai partire. Dean è il tipo perfetto per un viaggio, perché nacque letteralmente per la strada. Quando i suoi genitori passarono dal Salt Lake City nel 1926 in un vecchio macinino diretti a Los Angeles. Le prime notizie su di lui mi furono date da Chet King, che mi aveva fatto vedere alcune sue lettere scritte in un riformatorio del New Mexico. Mi interessai enormemente a quelle lettere, perché chiedevano a Chet, in modo così ingenuo e dolce, di insegnargli ogni cosa su Nietzsche e tutti i meravigliosi argomenti intellettuali che Chet conosceva. A un certo punto, Carlo ed io parlammo delle lettere e ci chiedemmo se avremmo mai conosciuto quello strano Dean Moriarty. Tutto ciò accadeva molto tempo fa, quando Dean non era quello che è oggi, ma solo un giovane carcerato avvolto di mistero. Poi arrivò la notizia che Dean era uscito dal riformatorio e stava venendo a New York per la prima volta. Si diceva anche che avesse appena sposato una ragazza di nome Mary Lou. Well, if you have a plan to modern west, travel my way, tell me how way that is best. Well, I get your kicks on Route 66. Well, let the winds from Chicago to LA more than 2,000 miles all the way. Well, I get you kicks on Route 66. Where I go to St. Louis, down to Missouri, and Oklahoma City looks so pretty. You see, I'm a real low in Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona. Don't forget we know I keep my best though, so I'm Bernardino. What do you get a hip to this family tree? Yeah. When you make that California trip, will I get you kicks on Route 66? Will I get you kicks on Route 66? Will I get you kicks on Route 66? Rock Wave, l'onda del rock. Un inizio diverso, sì, caro Maurizio, a te la linea. Sì, io sono molto contento e molto emozionato. Chi ha un inizio con On The Road? Dimmi lei, Elisabeth, chi ha un inizio con On The Road? Solo noi a Blu Radio Veneto e a Bisogna Rock avere coraggio, Maurizio, ci vuole un testo importante. Ci vuole un testo importante. Buonasera a Lele Zambon, buonasera a Virginia Zambon, buonasera a Massimo Favaretti. Ci vuole anche una voce importante. Una voce importante. E buonasera al beat, parliamo del beat, ci tuffiamo nel beat, parliamo, amiamo il beat. Amiamo il beat, e questa sera abbiamo iniziato con una, non con un adulto, no, ma con una ragazza, una ragazza giovanissima, che sa interpretare il beat e sa interpretare quegli anni particolari. Quegli anni importantissimi. Cosa facciamo stasera? Stasera ripercorriamo la carriera di Lele Zambon, e non soltanto la carriera di Lele Zambon, ripercorriamo l'umore beat italiano. Ma come è iniziato, Maurizio? È iniziato così. Da via Danieletti 118 all'Arcella, era la terza media e io stavo facendo gli esami di terza media. Prima di uscire di casa mettevo su un... avevo la radio Telefunken, quella famosa, che si alzava, e aveva la possibilità di mettere dentro un disco, 33 giri. E allora io avevo i dischi dell'epoca e naturalmente uno dei miei dischi preferiti era questo. Oh, oh, Carol, I'm but a fool. Darling, I love you, though you treat me cruel. You hurt me, and you made me cry. But if you leave me, I will surely die. Darling, there will never be another, 'cause I love you so. Don't ever leave me, say you'll never go. I will always want you here for sweetheart, no matter what you do. Oh, Carol, I'm in love with you. Oh, Carol, in Italia si chiamavano gli urlatori, questi non erano urlatori. No, ma sai come funzionava questo? Dimmi. Era l'effetto placebo la mattina, tipo tranquillante. Allora io andavo a scuola, facevo il mio esamino di italiano, e mi sentivo così rilassato, come se avessi pattuito un patto con la musica di... relax, di... No, no, quello no, sicuramente. Sì, O'Carol. Allora noi abbiamo iniziato con O'Carol, abbiamo iniziato con I'm so young and you're so old. This my darling I've been told. I don't care just what they say, 'cause forever I will pray. You and I will be as free as the birds up in the trees. Oh, please stay by me, Diana. Oh, please, Diana. Oh, please, Diana. Bravissimi, come un'aquila la musica americana è piombata nel nostro. E sai, il primo disco territorio che mi ha regalato mio papà era di Mi devi dare un fiore, di... ma poi mi viene in mente. Dopo ti viene in mente. Quindi cominciato con loro, Carol, eri alle scuole. Betty Curtis. Devi dare un fiore, Betty ma Curtis. Non lo scrivo. C'era la melodia all'italiana. La melodia all'italiana. All'italiano. Però tu amavi gli stranieri, amavi gli inglesi, amavi gli americani a stelle e strisce. Abbiamo citato tutto a stelle e strisce per adesso. Ce n'era uno in particolare americano a stelle e strisce. Vai. Che faceva... Mm. Sister, don't you? Sister, don't you? Sister, don't you kiss me once or twice and say the very nice and then you run. Sister, don't you do what your big sister done. Well, I did your big sister into a two-way show. Well, I went from candy and no came to dandy and it's not right out the door. Little sister, don't you? Little sister, don't you? Little sister, don't you kiss me once or twice and say the birds nice and then you're wrong. Little sister, don't you do what your big sister done. Naturalmente questo era il super grande, il grandissimo Elvis. È lui, è lui che ha sdoganato tutto, è sempre lui. Cosa dici Sergio? Elvis ha sdoganato tutto quanto. Abbiamo fatto anche un po' di blues, cari ragazzi, nonostante tutto abbiamo fatto un po' di blues. Elvis, noi adesso abbiamo parlato dei... Non era previsto niente in scaletta, è tutta organizzata al questo momento. Questo era il pre-Beatles. Era il pre-Beatles. La scaletta è saltata completamente. È saltata completamente. Buonasera anche al nostro fotografo. Buonasera, la scaletta Lucio. Buonasera. È diventata un ascensore. Esattamente. Quindi abbiamo parlato di Elvis e con Elvis abbiamo aperto le porte. Abbiamo aperto perché anche i Beatles poi abbiamo saputo erano molto innamorati di Elvis. Soprattutto John Lennon, mi pare, cosa dici? John Lennon sicuramente. E poi sono arrivati loro con le loro canzoni. E cosa t'hanno insegnato loro, quando eri al liceo? Allora, dimmi. In terza liceo. È importante la terza liceo. Perché liceo io ho preso una borsa di studio. Ecco. Ma diciamolo, ragazzi. Diciamolo. Che questi studenti di una volta alla fine studiavano. E con la borsa di studio mi sono acquistato la prima chitarra. Ecco, che chitarra era? Lei? Tedesca. Tedesca, assolutamente tedesca. Perché lo spread allora era giusto. La chitarra tedesca, una Hofner rossa. Non c'era Angela all'epoca. Angela non c'era. C'era però... C'era qualche altro. C'era qualche molecola che girava. Qualche molecola che girava. Sì, anche allora. Okay. Abbiamo acquistato questa bellissima Hofner rossa. No, purtroppo no, perché poi quando sono entrato nel gruppo di Royal dopo sei mesi, l'ho cambiata con una classica Stratocaster. Però forse hai pianto il cuore oppure no? Però devo essere sincero, questa Hofner così... Poi, ricordiamoci che il Paul McCartney usava un basso Hofner. È vero, è verissimo questo. Se lo usava Paul. Lo usava Paul, quindi lo poteva usare anche tuo papà, chiaramente. Allora, ricordo che in quell'estate con questa chitarra cominciavo a sentire i Beatles e ho cominciato a cantare le canzoni perché mi sembrava facile... Cioè le canzoni dei Beatles ti danno, soprattutto le prime canzoni, erano semplici. Ti davano quella davano quella idea di che si potessero cantare in casa, che tutti potessero cantare. È vero. E c'era una canzone che faceva così, che semplicissima. Da na na na na na na na. Da na na na na na na na. If there's anything that you want, if there's anything I can do, just call on me and I'll send it along. Well, love from me to you. I got everything that you want, like a heart oh so true. Just call on me and I'll send it along. Well, love from me to you. Bellissimi gli incisi. I got arm the loan to hold you and keep you by my side. I got lips the loan to kiss you and keep you satisfied. If there's anything that you want, if there's anything I can do, just call on me and I send it alone with love from me to you, to you, to you, to you, to you. Da na na na na na na. poi è arrivato Paul. È arrivato Paul, in mezzo a queste chitarre elettriche ha tirato fuori una cosina che si chiamava semplicemente Yesterday. Eccola. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now I looked through a here to stay. I believe in yesterday. Suddenly I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, oh, our love for yesterday. Love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Ooh, in yesterday. Perché ricordiamoci che Paul era anche un gran chitarrista. Sì, aveva anche le uova strapazzate, ma il primo titolo si chiamava Uova strapazzate. Perché lui si è svegliato. Raccontala bene, Maurizio. Raccontala a te che sei bravo, vedo che sei ispirato. Lui stasera si è svegliato alla mattina e ha detto: ma io stanotte devo essermi sognato qualcosa di particolare. E sembra che lui si sia alzato la mattina proprio con questa idea del yesterday, con queste uova strapazzate. Esattamente, era proprio. Poi le uova strapazzate o le metti in frigo oppure vanno a male. Certo. Quindi era roba di ieri. Però c'era una canzone bellissima. Ah, quella io ho sentito quello che fanno adesso. Che naturalmente stiamo parlando con l'amico Massimo, gran chitarrista. È gran cultore di Beatles, è gran cultore di Beatles. Ecco, sentite ragazzi, sentite cari ascoltatori in sottofondo, sentite. Blackbird singing in the dead of night, take these broken wings and learn to fly. All your life you were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night, take these sunken eyes and learn to see. All your life you were only waiting for this moment to be free. Blackbird fly, blackbird fly into the night of the dark black night. Grandi. Stiamo proprio tuffando a piene mani in questo mondo meraviglioso. Sì, ma poi loro avevano queste canzoni melodiche, ma non scherzavano neanche con i ritmi forti. Erano anche psichedelici, erano duri. E prima di essere psichedelici erano quasi... Loro avevano attinto molto dal rock, ma sapevano cambiare il rock. Avevano una capacità... Ricordo che il Capo Villa faceva una versione di Ticket to Ride molto cambiata rispetto all'origine, proprio sì, blues. Adesso entriamo lentamente, dobbiamo entrare lentamente nel mondo del tuo gruppo. i Royal. Allora, 1965, perché ho chiesto al mio tutore, perfetto, che sei proprio quell'anno, il tutore Igor Veran, ho chiesto proprio, ho mandato un messaggio ieri, ho detto: perfetto, ma dimmi, ma io quando sono andato, quando eravamo in quarto liceo? Allora, praticamente nel 60, nell'ottobre del 64, Loffner, quando l'hai comprata, che anno è? Nello 64. 64. E quindi eravamo all'inizio estate, e alla fine di quell'anno sono entrato nel gruppo dei Royals, che era un gruppo, diciamo, erano due gruppi che si erano assemblati. C'erano i due Carbucicchio di Padova, sì, che avevano un gruppo strumentale, Enrico Carbucicchio alla chitarra e Franco Carbucicchio all'organo, che poi tra l'altro quando sono arrivato io aveva meraviglioso organo Hammond. Che bello, che bello. Quello di Brian Hooker, ragazzi. Spettacolo, pesava l'ira di Dio. Esatto. E, però aveva un suono meraviglioso. Quando facevamo le scale, chiamavo sempre il nostro batterista Amleto di Madame una mano. Amleto Zanaro, perché poi c'era il gruppo di... Però non avevano il cantante. Mm. E allora una volta devono essersi incontrati a Sottomarina, c'era la storia, lo shaker. Sì, anche famoso locale, esattamente. Ti ricordi, Sergio, lo shaker di Sottomarina? Sì, ci andavo sempre io. Ci andavi sempre? Sì. E allora si sono connessi questi due gruppi, okay, con il cantante Silvano. Mm-hmm. Infatti il gruppo si chiamava Silvano e i Royals. Silvano e i Royals. E così abbiamo cominciato a portare queste novità, queste... E poi io allora effettivamente scrivevo i pezzi, però. Cioè ero entusiasta perché mio padre era poeta, in casa mia ognuno cercava di fare qualcosa, non è che si... E poi mi veniva naturale cercare di costruire qualcosa, e con queste basi siamo stati presentati alla Ricordi. Perfetto. E siamo arrivati a Milano, che abbiamo avuto questo contatto con Mogol. Siamo entrati in questo studiolo di Mogol, il quale ha ascoltato le nostre canzoni fatte con il primo Revox, registrate col primo Revox, che era un bussolotto gigantesco, e Mogol ci ha detto: ragazzi, mi piace questa cosa, magari la vedrei un po' più vivace. Allora fa un battito di mani, si apre la porta ed entra il ragazzotto che viveva nel corridoio. E questo ragazzotto ha cominciato a strimpellare la chitarra con un po' più di dinamica rispetto a noi, e questo ragazzotto era Lucio Battisti. Chiaro. Al che Mogol ha detto: ok, basta, e questo è uscito. se n'è andato e siamo rimasti lì. Ha detto: adesso devo lanciare un gruppo che si chiamerà i Dick Dick, dopodiché sicuramente lancerò voi, e dice testuali parole: le vostre canzoni le firmerò io. Al che per me sarebbe stato, ma sai, figlio di un poeta, giovane di 17 anni, dico: ma come, le canzoni mie le firmi te? Il film Mogol, come mai questo? E invece sarebbe stata è stata un'opportunità, certo, incredibile. E per questo motivo siamo finiti alla EMI, alla Voce del Padrone, sotto la tutela del produttore degli Nomadi. E lì abbiamo cominciato quasi una carriera parallela, Royals, mm-hmm, Nomadi, e poi naturalmente abbiamo vissuto parecchio a Modena. Avevamo lo stesso sarto che ci faceva le divise, i vestitini dei Nomadi, gli stessi fotografi. Avevamo come amico Maurizio Vandelli, che non solo lo trovavamo a Modena, ma veniva anche in sala di registrazione con noi. Nell'ultimo disco è venuto in sala di registrazione. Dobbiamo ricordare che lui era un fonico, anche, certo, era molto bravo. Poi lui aveva la Rolls Royce gialla come John Lennon, aveva i negozi a Modena come i negozi dei Beatles. Infatti mi hanno preso diverse cosine. Vedi. Lui arrivava con la maschera, entrava e faceva le cose. È uno che cercava, che sperimentava spesso. Ed era spesso a Londra, allora, ospite dei Small Faces. Ah, un altro gruppo sperimentatore al massimo. E quindi lui aveva scoperto questi modi di registrare. Che certamente, allora veniva chiamato come consulente fonico, come... Anche se era di un'altra casa di scuola. Su Mrs. Robinson abbiamo suonato insieme... Ma parliamo dopo di Mrs. Robinson. Adesso parliamo un momento, allora, del pezzo che tu hai scritto. Allora, il primo pezzo che ho scritto è stato La Porta Chiusa. Esattamente. Come è nata La Porta Chiusa? La Porta Chiusa è nata a casa mia. Mm. E, allora, io facevo queste registrazioni in un inglese maccheronico, dopodiché davo i nastrini a... c'era uno di Modena, adesso non ricordo, Dodo, era un consulente di Nomadi, uh-huh. E quale le passava Vandelli qua e là. Infatti Vandelli mi chiamava Giovanni Lennino, esatto, proprio per questa somiglianza. E La Porta Chiusa faceva un inglese, ma è piaciuta molto. Ed è stata poi fatto un testo in italiano. Sempre scritto da te il testo? No, il testo no. Il testo di La Porta Chiusa è stato scritto da Argenio, mi sembra. Sì. E la musica è stata scritta da me, ma risulta Pontiac, perché non è riuscito alla SIAE. Esatto. Come moltissimi gruppi allora. Anche Guccini aveva la stessa cosa, ecco, all'inizio. Quindi, di carriera. Io e Guccini all'inizio eravamo uguali. Sì, anche lui non poteva firmare i pezzi. Il famoso Auschwitz non ha potuto firmare. Mentre il retro della Porta Chiusa, ho scritto la musica e il testo l'abbiamo scritto in macchina io e Enrico Carbucicchio, che stavamo andando a Milano, da Pada a Milano, abbiamo scritto il testo in macchina. Perfetto. Quindi è stata proprio una cosa on the road. Ecco, proprio questo è stato un testo on the road. Adesso si fa più queste robe, si fanno con i telefonini i testi. Una volta invece si scriveva in un'altra maniera. E quindi io direi che sì, adesso potremmo anche ascoltarla. Sì, certamente. Rock Wave, l'onda del rock. Vattene pure da me, tanto hai detto che tu non ti trovi con me. Ma porta via con te tutti i sogni che tu hai vissuto con me. Tutte le ore del nostro amore, portale via con te. Non voglio la carità, meglio pure da me, non ti chiedo pietà. Corri più forte che puoi, più lontano che puoi, più lontano che mai. Devo scordare tutto l'amore che ho dato a te. Adesso vai, ma non tornare indietro mai, perché ogni volta in me tu troveresti una porta. Eccoci qua, abbiamo sentito La Porta Chiusa, 1966. Dobbiamo sottolineare una cosa: questo è un disco del 66, però è stato riproposto, ristampato, proprio recente, è uscito ieri, mi pare, questa raccolta dei Royals, vero Lele? Un CD rappresentativo della discografia dei Royals, comprende non solo, sì, comprende anche qualcosa che poi, che poi diremo. Ecco, a proposito, da dove vengono le registrazioni? Dalle case, dall'etichetta dell'epoca o... A noi abbiamo registrato i 45 giri nella basilica. C'era una basilica che funzionava da studio di registrazione. A Milano? Dove registrava anche Mina. A Milano era questa? A Milano. Sì, vero. Abbiamo fatto qualche... Io ho fatto delle registrazioni con i Nomadi alla Philips, perché ho fatto la seconda voce ai Nomadi, e poi vedremo, magari sentiremo. Dove? Vedremo dove. Alla Philips, che era sempre a Milano. Sì. Mentre la nostra prima registrazione, le nostre prime demo le abbiamo fatte alla Lungo il Naviglio. Ah, sempre a Milano. Mi sembra che si chiamasse Zanichelli, no, un nome così, insomma. Lungo il Naviglio c'era questa sala di registrazione e abbiamo fatto qualcosa anche lì, sì. Sì, ma quando sei andato a Milano, sei andato, hai aperto la porta, sei andato nel studio Ricordi, nella casa discografica Ricordi, e un piccolo, un ragazzo da Frosinone, o giù di lì, vicino a Frosinone, è entrato dalla porta, si chiamava Lucio. Chiamava Lucio, ma noi non lo sapevamo. E voi non lo sapevate. E Mogol ha presentato, beh, vieni avanti. Però devo essere sincero, Mogol aveva molta stima di lui, se no non l'avrebbe chiamato, al cospetto sì. di noi. E questo modo di suonare era particolarmente espressivo. Sì, perché lui, lui aveva una chitarra acustica. Certo, lui scriveva acustica. Prima, assolutamente, non ha cantato dopo, prima scriveva. Prima scriveva, poi io Lucio Battisti l'ho trovato al primo festival di Rieti. C'era Enza Sampo che presentava, c'erano i New Dada, c'era Maurizio Arcieri, che chi non se lo ricorda Maurizio Arcieri, bravissimo, ecco. Peppino Di Capri, Peppino Di Capri, c'era addirittura i Campioni, che era il gruppo di Tony Dall'Ara, esattamente, e nei Campioni era, c'era come c'era Lucio. Chitarrista Lucio Battisti. C'era Lucio, esattamente. Noi eravamo in coppia con Paco e Pachi. Che sono stati? I precursori di Nuovi Angeli. Bravo, proprio i Nuovi Angeli. Poi c'era Donna Felicità. Donna Felicità. E altre, che le ha scritto Vecchioni, hanno, Donna Felicità. Sì, che pareti che hanno Vecchioni. Suonato la nostra canzone, La Porta Chiusa. Quindi eravamo in, come il Festival di Sanremo, all'inizio c'erano siamo arrivati in Ferrari Verde. In Ferrari Verde, siamo arrivati a Rieti. In Ferrari. Bellissimo. Non c'era ancora il fisco che cercava. In Ferrari verde. Pagato lo spettacolone. No, no, perché il nostro organista allora aveva queste possibilità si era acquistato questa Ferrari verde. Verde bottiglia. Meraviglioso. Ragazzi. Una cosa meravigliosa. Una cosa. Allora, noi una volta abbiamo suonato a Mestre, al teatro di Mestre, sì. con i corvi. Al corso di con i corvi. Ah, con i corvi, quelli, un ragazzo di strada. Sì. Siamo arrivati, che c'era naturalmente una volta c'era un sacco di gente davanti al teatro, siamo entrati con la Ferrari. A proposito di corvi, Lele, aveva sempre il pennuto sulla spalla? Aveva il pennuto sulla spalla e naturalmente a Padova è stato cecchinato. Perché naturalmente i buoni padovani avevano la cerbottana col pennuto. Perché c'è una storia su questo pennuto, questo corvo. Sì, è stato cecchinato. Perché il leader dei corvi aveva insegnato al corvo, l'aveva addomesticato e lui praticamente passava nei bicchierini di jeans e con il becco beccolava i bicchierini di jeans del gruppo. È vero, e poi ha fatto una brutta fine, l'hanno dimenticato dentro un Ford Transit e il giorno dopo l'hanno trovato stecchito. Cusinà. Esatto, proprio. Ma ritorniamo allora a Lucio. Non c'era l'aria condizionata. No, non c'era l'epoca. Ritorniamo a Lucio. Tu hai visto Lucio Battisti che cominciava a suonare, ad interpretare. Sì, ti dirò che allora Lucio era un personaggio di secondo piano, naturalmente, quindi era difficile per noi capire. Io allora andavo a Milano a sentire il Fausto Leali che suonava in una cantina, andavo al Piper, c'erano i Bad Boys, cioè quando arrivavano i gruppi inglesi, ragazzi, era un'altra cosa. Non ce n'era per nessuno, certo. Avevano una pulizia di suono. C'è andato anche Jimmy al Piper. Sì, sì, appunto. Vuol dire, c'era... E quindi Lucio Battisti lo ricordo così, con affetto, in momenti, naturalmente, allora anche lui era all'inizio. Certo, e come è iniziato Lucio Battisti? Così è iniziato, probabilmente. Proprio così. Io lavoro. Io lavoro. Penso a te, torno a casa e penso a te, le telefono e intanto penso a te, come stai? E penso a te, dove andiamo? E penso a te, le sorrido, abbasso gli occhi e penso a te. Non so con chi adesso sei, non so che cosa fai, ma so di certo a cosa stai pensando. È troppo grande la città per due che come noi non sperano, però si stanno cercando. cercando. Scusa, è tardi e penso a te. Ti accompagno e penso a te. Non sono stato divertente e penso a te. Sono al buio e penso a te. Chiudo gli occhi e penso a te. Io non dormo e penso a te. La la la la la la. Cosa farai? Ma so di certo a cosa stai pensando. È troppo grande la città per due che come noi non sperano, però si stanno cercando, cercando. Lavoro e penso a te. Bene. Sarà anche musica di altri, ma che musica, ma che musica, e che interpretazione. Sì, sì, sì, sì, decisamente. Ricordo una versione meravigliosa di Mina alla bussola di questo pezzo di Lucio. Bellissimo. Mina aveva ricreato certi pezzi. Mogol e Lucio Battisti li scrivevano per Mina perché Mina aveva le corde per poterli interpretare. Però io ho letto un articolo. Dimmi. Ho letto un articolo del papà di Lucio Battisti anni fa che diceva che Lucio Battisti non era proprio contentissimo di come Mina cantava le sue canzoni dal punto di vista ritmico. Può darsi. Della quadratura ritmica. Può darsi. Non perché era stonata, no, no, assolutamente no. Può darsi. Perché secondo lui la metrica delle canzoni, di anticipi, le cose, non li sentiva come ma, li sentiva ma lui. Perché guarda che Lucio Battisti. Lucio Battisti ha degli anticipi che non sono facili. Cioè, infatti, non è facile cantare. Lucio e lui Battisti. Non era contento perché la Mina non faceva questi anticipi. Tu hai citato prima i Dick Dick, ti ricordi? Mogol disse: sì. Prima produco i Dick e poi voi. C'era anche la Vanoni. In mezzo, c'era anche la Vanoni, c'è una chicca, nel cuore e nell'anima dovevano cantare i Dick Dick, invece all'ultimo momento il buon Mogol ha detto no, la canta l'equipe, c'è stata una piccola confusione di intenti quel giorno e i Dick Dick se ne volevano andare della ricordi appunto per quello. Pensate. Poi i Dick Dick l'hanno riproposta loro, però l'impatto, e aveva ragione Mogol, l'impatto che dell'equipe 84 è un'altra cosa, la voce di Maurizio Mandelli aveva forse più una risonanza maggiore. Certo, e un'altra cosa, c'è stato, Lucio ha fatto una sua Yesterday, vero Massimo? Sicuramente ha fatto una sua Yesterday. Eccola qua, adesso la sentiamo, la sua Yesterday. Seguir con gli occhi un erone sopra il fiume e poi ritrovarsi a volare e sdraiarsi felice sopra l'erba ad ascoltare un sottile dispiacere e di notte passare con lo sguardo la collina per scoprire dove il sole va a dormire, domandarsi perché quando cade la tristezza in fondo al cuore, come la neve non fa rumore. e guidare come un pazzo a fari spenti nella notte per vedere se poi è tanto difficile morire e stringere le mani per fermare qualcosa che è dentro me, ma nella mente tua non c'è. Capire tu non puoi. Tu chiamale se vuoi, emozioni. Tu chiamale se vuoi, emozioni. Che bella, è troppo bella, emozionante. È emozionante, è proprio la sua Yesterday, c'è poco da fare. Eh sì, poi così acustica e... Ritorniamo sui nostri passi. Questo è il singolo che avete inciso, un singolo che respirava molto di non posso sparare i Beach Boys, però i Sti Coretti qualcosina adombravano. Ma guarda, cosa ti dirò che una volta sono stato a una presentazione di un libro sul beat e questi due giornalisti che hanno scritto hanno definito La Porta Chiusa il miglior pezzo di beat italiano. Bene, di bene. Beat italiano. Bene. Cioè questi due giornalisti di Verona. Adesso non ricordo i nomi, però era così. È un bel onore per te. È un onore incredibile. Anche perché allora la maggior parte delle canzoni erano delle cover. Esatto, erano tutte cover, però erano cover particolari. E quella che adesso sentiamo è una cover dei Consortium. Era un gruppo famosissimo, i Consortium. Però c'è una particolarità. Penso me la spieghi te. O meglio, lasciamo. Facciamo così, sentiamo il pezzo e poi la spieghiamo dopo finito il pezzo. Benissimo. Adesso sentiamo i Nomadi allora. Vai via, cosa vuoi? Se magari mi avvertivi prima. Hai ragione, pensavo che... No, adesso sentiamo i Nomadi. Ti vogliamo vedere così, quindi no? Quindi continuate un po' a chiacchierare. Tanto la scaletta non esiste stasera. Sì, appunto. No, allora ci fermiamo prima, un secondo. Allora raccontiamo ci prima. Raccontiamo un momento il modo. C'è un motivo per parlare di Nomadi e parlare della partecipazione. Abbiamo fatto dei caroselli insieme, quindi eravamo spesso insieme. Abbiamo fatto delle trasmissioni insieme. Eravamo diventati... amici, ma a parte questo avevamo lo stesso produttore. Esatto, che mi piace, si chiama Bacchelli, giusto? Corrado Bacchelli. Che ha anche prodotto Alan Sorrenti. Che poi ha prodotto Alan Sorrenti. Che cose di Alan Sorrenti? Non ricordo, però sicuramente il pezzo più famoso... Purtroppo sì, Il figlio delle stelle. Esatto. Quella, perché io te sicuramente ricorda l'Ala Sorrenti di Aria, perché vorrei incontrarti. Perché io allora ero già uscito dalle scene, quindi... Però vorrei soffermarmi un momento, dopo sentiamo il pezzo di Nomadi, della partecipazione del gruppo, degli artisti di ogni casa discografica partecipavano insieme, per esempio... Ma io credo che qui ci fosse molto della la stessa produzione, quindi sceglieva una cosa, cercava di farla per tutti e due, insomma, così. Quindi c'era una poi voleva economizzare anche. Sì, sì, sì. Per e quindi poi naturalmente i Nomadi aveva questa voce. Bello, Augusto aveva una voce meravigliosa. Una voce meravigliosa, ma non avevano i falsetti, non avevano queste cose. Allora io mi sono trovato in sala di registrazione con le coriste. Ecco, le coriste. Di solito di Norlandi oppure no? Due coriste donne. Allora mi sono messo in mezzo alle coriste a fare a un certo punto non funziona, non può funzionare, perché il maschio che fa la stessa tonalità ha una potenza, una forza diversa rispetto alle donne che sono più sobrie sulle tonalità, perché per noi è un falsetto, per loro no. Esatto. Quindi diventa un contrasto tra voci. Allora a un certo punto il direttore, che era Gatto, come si chiamava? Quel famoso direttore d'orchestra. Non l'hai citato nelle note. Non l'ho citato e adesso non ma ero famosissimo. Io ricordo Morricone, ma lui ci deve parlare. Forse tu ti ricordi. Beh, mi sfugge. Mi ha dato via le coriste e sono rimasto io da perfetto. Solo. Allora sentiamo, vai via, cosa vuoi. E poi, cari ascoltatori, dovete ascoltare attentamente il finale del pezzo, quando c'è il coretto. Provate a sentire attentamente. Rock Wave. L'onda del rock. Credi, non ci rivedremo, sai, non vivo più. Se non hai capito mai che amare vuol dire soffrire, che amare vuol dire morire. Baby, cosa vuoi? Baby, cosa vuoi? E da domani cambierà, e da domani finirà. Per me nessun ricordo, per me nessun rimpianto, così tu sola resterai. Ci rivedremo, sai, perché non hai capito mai che amare vuol dire soffrire, che amare vuol dire morire. Baby, cosa vuoi? L'onda del rock. Ridendo e scherzando, abbiamo quasi bruciato la prima ora. Esattamente, stavo parlando appunto di questo. Mentre ricorda con chi siamo questa sera. Questo è Blue Radio Veneto, questo è Rockway specialissimo beat. Con Lele Zambon, Virginia Zambon e Massimo Favaretti. Allora, parliamo di questo acuto, di questo falsetto. Ragazzi, questo falsetto è fatto da Lele Zambon, qui in carne ed ossa. Lì le donne si sono veramente arrabbiate. Mi sono strappate i vestiti. Le donne hanno detto, il femminismo è iniziato lì. Esattamente. La corrente, perché ha detto, basta, non ne possiamo di più di questi uomini che ci fregano anche il falsetto. È vero, ma è stato il maestro Porcio Gatti che ha detto Porcio Gatti, ha detto bravissimo, questo. Ti sei ricordato? Sì. È stato lui che ha detto, ragazze, via! Via! Non c'era la cassa integrazione, per cui ho dovuto... E abbiamo fatto questo falsetto meraviglioso, insomma, è piaciuto moltissimo. Ma eri proprio al centro, cioè Augusto cantava e voi eravate al centro o eri fatto a parte? No, facevamo le registrazioni, racconto una chicchina. Dai. Che naturalmente io ero amico di tutti i nomadi, anche perché giocavamo spesso a poker insieme. Perfetto. Nelle pause, o a carte, insomma. E Augusto aveva una peculiarità, che aveva sempre un blocco notes dietro. Mm. E su questo blocco notes faceva i suoi disegni, disegnava i suoi sempre, punti, sì. Quindi è sempre attento. E, mi dispiace di non aver fatto un cambio allora. In che senso, Lele? Una paginetta sua con la paginetta mia. È vero. E quindi aveva sempre questi disegni, no? Con la matita, con la penna. Quindi aveva questo, si appartava e disegnava. Aveva questa sua ricerca dell'immagine della... ed era molto particolare, che fascino. Sì. Io ho sempre amato Augusto come personalità e come cantante, a voce meravigliosa. Che fascino aveva, che fascino portava? Ma ti dirò che allora noi eravamo due gruppi un po' quasi antagonisti. Mm. E quindi sai, poi io credo che poi la cultura dell'amicizia tra i musicisti in Italia si è venuta un po' dopo. È vero, non c'era prima. Perché allora c'era l'antagonismo totale. Un po' io qua, io là, eccetera, eccetera. Adesso se tu vedi uno che suona meglio di te, dici, scusa, ma mi fai vedere quell'accordo? Una volta uno, ma neanche morto. Si avvicinava, simile arcosa. Sì, voglio dire, c'era questa tensione, un po' questa... Però negli Stati Uniti... ma forse credo solo in Italia. Esatto, all'estero no. Esatto. Non c'è mai stata. Bene, abbiamo sentito questo pezzo di Nomadi con l'interpretazione di Lele Zambon. E sei andato in classifica con questo pezzo, Lele? Con questo pezzo siamo andati in classifica sicuramente. Veniva e veniva trasmesso molto spesso in radio anche. Perché era una cover di Consortium, era un gruppo inglese, aveva quel modo di fare molto americano, anche se era inglese, questa sembrava un'autostrada, questa macchina, avevamo questa vocalità, insomma, quindi era un gruppo che piaceva. Poi uno dei pezzi che ci è stato chiesto di fare era la cover di del Mrs. Robinson. E come mai vi è stato chiesto di fare dalla Amy? Questo non ricordo bene tutti i passaggi. Comunque ci è stato chiesto di fare questo, noi l'abbiamo arrangiato, che poi sì, Maurizio Becker scrive nella Band in Italy, l'avete arrangiata con una certa predisposizione molto particolare, ha scritto Maurizio Becker. Questa è una raccolta di pezzi. Tieni presente che anche la porta chiusa, porta chiusa io suonavo una 12 corde. Però, vedi. Una 12 corde. Che non era mica semplice. Allora. Che non era semplice. Poi c'è caduta sopra la nostra donna di servizio. E quindi l'ha distrutta o quasi. No, l'ha proprio distrutta. L'ha proprio distrutta. E particolare di Mrs. Robinson. Essendo del gruppo di Modena, il pezzo è stato affidato a Guccini. A un nome tutelare. Esatto. Però non poteva. Cioè, come è scritto il testo? Simon Guccini. Musica e parole. Però le parole erano tutto diverse. Ecco, ricordiamoci che il Guccini non ha tradotto molte canzoni. No. Tu, Maurizio, lo sai sì, bene. Sì, è rarissima, è una cosa rarissima. Credo che ne abbia fatte tre. Sì, al massimo. Ecco, però quella la più importante forse è stata questa. Questa è la più importante, quella che ha avuto anche più successo. Poi con questo pezzo abbiamo fatto un bellissimo carosello per gli innocenti. Quello è importante, perché si facevano i caroselli. Se volete vederlo su YouTube, c'è, si trova. Poi dobbiamo sottolineare una cosa, Lele. Il testo che ha fatto Guccini era totalmente diverso dal testo di Simon. Era completamente diverso, sì. Aveva una visione un po' più particolare, forse meno drammatica, un po' più melanconica. Esattamente. Adesso lo abbozziamo un attimo, senza farla tutta, e con il maestro Massimo Favaretti, che inizia la canzone. Ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti. Buongiorno a te, Mrs. Robinson, quando preghi, prega un po' per noi. Wow, wow, wow. Felice a te, Mrs. Robinson, t'ama il cielo più di quanto sai. Hey, hey, hey, hey, hey, hey. Sarò curioso, un po' indiscreto, dimmi cosa fai e come passi i lunghi giorni tuoi. Come vedi il mondo dagli occhiali che tu hai? Tu lo sogni ancora com'era ai tempi tuoi. Buongiorno a te, Mrs. Robinson, quando preghi prega un po' per noi. Wow, wow, wow. Felice te, Mrs. Robinson, t'ama il cielo più di quanto sai. Hey, hey, hey, hey, hey. Sul divano buona la domenica starai, con vecchie amiche parlerai. Spallerete, riderete mentre il tempo va. La tua gioventù non tornerà. Dove sarà chi vent'anni fa ti disse frasi che non scordi più? La gioventù se n'è andata via, non c'è più che un po' di vuoto ormai. Hey, hey, hey, hey, hey, hey. bellissima. Sposo integralmente quello che ha scritto Maurizio Baker, che ha scritto questo. Dunque, lo stile è agile e funky, le chitarre acustiche esaltano un suono molto serrato, le percussioni le abbiamo già ricordato, ma lo ricordiamo ancora una volta, colorano il ritmo e sono affidate a Maurizio Vandelli, che era amico della band, faceva parte, amico, partecipava. Sì, no, ma noi andavamo a mangiare le tagliatelle insieme. Di tagliatelle con lui. Da mamma c'era una trattorietta vicino al loro locale a Modena. Mm. C'era una signorotta bella ben messa. Ben messa, che faceva delle tagliatelle. Hai voglia. E questi sono belle cose, belli episodi. E poi all'improvviso così si è intrufolato in questa storia musicale il Bob Dylan. Quello sì. Lui si è intrufolato. È arrivato come una piccola manina lunga e ha cominciato a dire: ma ragazzi, forse non c'è solo I want you, you want me, I love you, love. E ha cominciato a dire qualcosa di diverso. E noi siamo rimasti un po' folgorati da questa cosa. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm no sleeping hen, there is no place I'm going to. Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning I can follow with you. Take me for a trip upon your magic swirling ships. All my sense have been stripped, and my hand can feel the trip. Move my toes to numb to step. Wait only for my bootlace to be wandering. I'm ready to go anywhere. I'm ready for to fate. Oh, into my own parade. Cause still dancing spell my way. I promise to go under it. Hey, Mr. Tambourine, play a song for me. I'm no sleepy and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine, play a song for me. In the jingle jangle morning I can follow it. Che bella, che bella. Fa allora parte, sai, dimmi. Quando entrano queste cose, e poi un po' senti il blues, e un po' senti i testi nuovi, e un po' il blues, e un po' i testi nuovi, un po' il blues, poi vai al 58 e senti una canzone come questa e dici, ma ragazzi. Bellissima, meravigliosa. Sì, la sentiamo, vai. Era una certa Julie London. Certo. Cried it all night through. Well, you can cry me a river, cry me a river. I cried a river over you. Now you say you're sorry for being so untrue. Well, you can cry me a river, cry me a river. I cried a river over you. You drove me, nearly drove me out of my head. When you never shed the tear. Remember, I remember all that you said. Told me love was too plebeian. Told me you were true with me. And now you say you love me. Well, just to prove you do, come on and cry me a river. Cry me a river. I cry the river over you. You draw me kneeling. You draw me kneeling, draw me out of my head. Why you never shed a tear? Remember, I remember all that you said. Told me love was too plebeian. Told me you were true with me. And now you say you love me. Well, just to prove you do, come on and cry me a river, cry me a river, I cry the river over you, I cry the river over you, I cry the river over you. Grande, grande, grande, bisogna un applauso a Virginia che ha colorato Massimo, il pezzo con e Massimo che l'ha accompagnata, un pezzo assolutamente di blues. Siamo passati da dallo sdoganamento dei Birds, grazie a Bob Dylan con Mr. Tambourine Man, a un pezzo di blues. Bello, perché il beat è anche questo, è anche questo il beat. Si passa dai ritmi molto vivaci, accattivanti di Mr. Tambourine Man a un ritmo molto più cadenzato, molto più introspettivo del blues. Allora, praticamente, diciamo alla fine del 69. 69, siamo arrivati, però dobbiamo sottolineare che voi, Royal, avete partecipato a una compilation famosa della EMI, dove c'erano i Beach Boys, c'erano gli Animals e un gruppo che molti non conoscono, David Clark Five. David Clark Five. Un gruppo che molti conoscono invece, che era The Shadows. The Shadows, esattamente, gruppo fantastico. E questa è stata una The Special 14. Eccola qua, Pasha, vai, vai. Non mi ricordo più. Non te la ricordi più. Beh, la Special 14. Meraviglioso. C'erano anche i Nomadi nel lato B. Perché noi eravamo nel lato A insieme ai Beach Boys, poi nel lato B c'era Gordon, il famosissimo duo di allora, sì. E alla fine c'erano i Nomadi, quindi eravamo lato A i Royal, lato B i Nomadi, su gruppi famosi, più lato A che lato B. E ti ricordi i Beach Boys con quale pezzo è? Mi sembra che fosse Sloopy John. Ah, ok, benissimo. Lo sai, perché i Beach Boys hanno ucciso un disco di recente, è uscito 2 mesi fa, sì, il nuovo, sì, disco di Beach Boys. È un disco di Beach Boys targato 2012, però le atmosfere... Sì, sì. Sono sempre, sì, sì, quelle, c'è poco da fare. Ascolta, è praticamente... Dimmi allora, diciamo, ora siamo arrivati nel 69. Io credo che, che quello che ha determinato questo changing, questo cambiamento, questa spending review... Sì, adesso si chiama così, sì. va tanto di moda. Detto sia certo. Stato il 68. Sì, 68 è stato il 68 perché è stato l'anno della rivoluzione, sì, l'anno della contestazione. Contestazione, più che rivoluzione, contestazione. Allora noi eravamo anche seguiti da moltissimi ragazzi, cioè, col 68 c'è stato, come sai, quando spari in mezzo al mucchio, alcuni tornano, cioè, praticamente c'è stato un diradarsi di queste cose, poi ognuno pensava che l'importanza di un atteggiamento, l'importanza di una ricerca non fosse più così dedicata al divertimento, ma fosse, meritasse un approfondimento. Quindi tutti quanti si sono un po' allontanati dal mondo dello spettacolo, della musica, per cercare qualcosa di apparentemente più importante, o sicuramente, o forse più importante. Quindi c'è stata questa... In questa mia, anche, quindi anch'io, che naturalmente mi ero iscritto a medicina, quindi mi sono appassionato della medicina, di questo studio in cui naturalmente vedevo un'importanza di percorso, lo studio del corpo umano, mi sembrava, sai, che c'era quel famoso viaggio all'interno del corpo umano. Esattamente. Ecco. Mi sentivo una capsula proiettata. E in questo percorso, naturalmente, cominciando a studiare a casa, mi sono messo a leggere un po' di libri di poesia. Naturalmente a casa mia giravano un mucchio di libri di poesie. Perché dobbiamo ricordargli perché, perché tuo padre era un poeta. Era un poeta. A casa mia veniva Giulio Alessi, certo, che è un poeta padovano, Gorini, veniva De Luca, mio padre scriveva per la Fiera Letteraria e per Il Mattino, che era... e poi ha fatto un libro su Diego Valeri, molto importante, veniva Diego Valeri a casa mia. Un poeta famosissimo, Diego Valeri. Forse il più grande poeta veneto. Venivano gli studenti a fare le tesi universitarie, quindi insomma era una casa frequentata da questo ambiente un po' culturale. È chiaro che in alternativa a questi poeti italiani, questi poeti padovani, noi magari attraverso proprio il Bob Dylan cercavamo magari di poeti nuovi, e lì abbiamo trovato il Kerouac, abbiamo trovato l'Allen Ginsberg. Cioè, il Kerouac, Allen Ginsberg mi pare che abbia dato la definizione di beat. È stato lui a coniare la definizione di beat assieme a, cioè non proprio a Ginsberg, Holmes e Ginsberg hanno coniato la definizione di beat. Che era una definizione molto contestata, perché beat come beato, come un po' come suonato, come beato. Esattamente, perché in Italia il beat era considerato sporco, cappellone, era sempre trattato male, erano proprio lasciati da una parte. Invece si parlava quasi di beatitudine, di atteggiamento così un po' distaccato, ma di... In quel momento lì avevo un Revox a casa e avevo cominciato a registrare delle canzoni su queste poesie americane. E mi piacerebbe che se potessimo sentire una di queste canzoni, che è una sul demo degli anni 60, è una canzone in cui sentite una mia voce, diciamo del 69, così. Ancora fresca? Ancora fresca. Freschissima. Freschissima, perfetto. che canto una canzone, un pezzo dedicato ad... un pezzo di Allen Ginsberg. Adesso lo sentiamo. Titolo? Wild Orphan. Ok, perfetto. Che non esiste poi nel disco che ho fatto, è un pezzo così, proprio non l'ho più ripreso, e per questo mi piace farlo sentire. E andiamo a sentirla. Matter takes him strolling by rail or by river. He's the son of the scorned horror angel, and he made his scars and rest them in his dream. So lonely growing. On the imaginary automobile, and that sounds of Terrytown. To create our vision, imagination, the beauty of his wild forebears, a mythology cannot arise. Hallucinate his God, walk among mystery, with an encycling of recognition, something so rare in his soul. Only dream, nostalgia's of another life. question of the soul. And danger and losing their injury, their innocence. A cock, a cross, and is jealous of love. And the father creates in from complexities of memory a thousand miles away. Unknowing of the unexpected, you're a full stranger. Booming to worry's door. L'onda del rock 23:16 Maurizio. Sì, 23:16 sta con ascoltando Lele Zambon, te. Si parla di beat. Ginsberg, Allen Ginsberg, che è un rappresentante, il poeta forse più famoso, cioè che è della Generation, aveva scritto questo libro, L'Urlo, era uscito per la Mondadori, no? E con la traduzione di Fernanda Pivano, e quindi ci affascinava molto queste poesie. Una poesia di Allen Ginsberg mi ha sempre affascinato, è molto breve, dedicata a un poeta americano girovago, molto amato dagli americani, ha girato l'America in giro largo a recitare poesie sulle strade, per le piazze, e si chiamava Lindsay, Rachel Lindsay, e questa è la poesia. Lui è un poeta che poi è morto in maniera tragica, qui Allen Ginsberg mima un suicidio che poi effettivamente non è stato così. Rachel, le stelle sono spente, l'ombra è caduta sulla strada del Colorado. Una macchina arranca lentamente nella pianura. Nella luce fioca, la radio urla il suo jazz. Il venditore, affranto, accende un'altra sigaretta. In un'altra città, 27 anni fa, vedo la tua ombra sulla parete. Stai seduto in bretelle sul letto. L'ombra della mano ti solleva una pistola alla testa. La tua ombra precipita a terra. Rachel, the stars are out. Dusk has fallen on the Colorado road. A car crawls slowly across the plain. In the dim light, the radio blare is jazz. The heartbroken salesman lights another cigarette. In another city 27 years ago, I see your shadow on the wall. You sit in your suspenders on the bed. The shadow lifts up a pistol to your head. Your shade falls over on the floor. Ok, abbiamo sentito questa poesia e parliamo quindi di Allen Ginsberg e del progetto famoso che volevi portare avanti. Dopo ricordiamo che Lele si allontana dai, dai Roya, poi i Roya praticamente si sono sciolti dopo qualche anno, mi pare. Sì, adesso i Roya si sono sciolti dopo poco tempo. Dopo poco tempo che tu sei andato via. E poi, però devo essere anche sincero. Dimmi. Allora, poi è uscita questa cosa di Allen Ginsberg, poi ho registrato un disco. E dobbiamo sottolineare una cosa fondamentale. Tu hai pensato ai poeti americani prima dello Spoon River di De André. Bravissimo. Infatti, e quindi prima dell'apporto con Fernanda Pivano. Addirittura i rappresentanti della Voce del Padrone sono venuti a casa mia via Danieletti 118, ma non andate. Sottolineiamo di Rizzo. Sono venuti a sentire le mie registrazioni sul mio Revoxino, hai capito? Avevo due microfonini Shure, quelli a stelo, da sì, batteria addirittura, che mi ha dato il buon amico Renzo Storti, ricordiamocelo, che mi veniva ad aiutare a registrare. E sono rimasti affascinati perché usavo una vocalità particolare, sai, nel silenzio un di un po' barettiana, secondo me. Un po' barettiana adesso che hai scoperto questa cosa. Ecco, un po' barettiana. E sono rimasti affascinati e allora mi avevano proposto nel 69 di fare un 33 giri da solo sulla poesia americana di Allen Ginsberg, scegliendo Allen Ginsberg. E lì c'è stato un attimo di discussione, io volevo farlo in inglese, loro assolutamente in italiano. E naturalmente, siccome ci riferiamo sempre all'anno 68 in cui ognuno contestava qualcosa, io ho contestato questa scelta. Forse hai sbagliato. E forse ho sbagliato. L'ho rifatto poi questo disco di Allen Ginsberg negli anni del 98, soprattutto per merito di Adriano Vettore. Che salutiamo e che poi faremo sentire qualcosa di Adriano. Sì. E che mi ha stimolato, mi ha spinto e l'abbiamo registrato di Pittura Fresca, nello studio di Pittura Fresca, di Cristiano Verardo di Pittura Fresca, con naturalmente la presenza di molti musicisti importanti, tra cui Carlo De Bei, Tollo Marton, certo. E, insomma, Paolo Andriolo, insomma, jazzisti tipo... Certo. E quindi abbiamo fatto questo meraviglioso, questo veramente tributo. Fatto bene. Io ho partecipato più come cantante quasi che come musicista, perché avevo davanti dei musicisti mostruosi. E, però non è che io mi leggessi solo le poesie di americani di Allen Ginsberg, ero molto affascinato dalle poesie africane. Ecco, quindi avevo preso, mi ero acquistato dei testi di poesie africane in lingua inglese, e su queste poesie anche mi piaceva, perché mi sentivo, perché sai, quando leggi un testo, il testo ti dà un ritmo. Allora a me i testi di Allen Ginsberg mi davano un ritmo particolare, i testi africani mi davano un ritmo diverso, mi piaceva questa ritmicità. Poi avevo un amico che veniva a casa mia con i bonghetti, era bravissimo, si chiama Checco Bergamo, e veniva lì, suonava, mi piacevano queste sonorità, mi piacevano molto. E allora mi piacerebbe fare sentire un pezzo di Black Man Trouble, è sul disco dei Royals degli anni 40, 40 anni di anni 40, 40, sì, anni, 40 di, anni dei Royals, sì, 40 anni dei Royals. Adesso vediamo se lo troviamo, Black Man Trouble. E adesso finché lo cerchiamo, vi leggiamo un attimo un po' di testo in italiano e poi mettiamo su questo disco che abbiamo registrato a casa mia. Erano le 8 di sera. Bene. Ho preso questo libro, ho girato la pagina e mi è venuta fuori questa canzone. Ma chi c'era in stanza con me? Guardate, mia sorella Donatella, la quale senza dir niente si è attaccata e abbiamo fatto questa canzone non stop. Primo one take, come si dice? One take. Adesso la Virginia vi leggerà questo testo in italiano. In italiano, esattamente. Qualche volta penso a questa vita e al tribolare che il nero vede. Povero nero, egli deve affrontare una grossa battaglia o cascar giù sulle ginocchia quando ha da procurarsi qualche piccolo bene o mettersi nello stomaco un boccone. Io do il mio sangue e la mia vita per voi, ma voi non vi ricordate di me. Il mio cuore è pulito, la mia parola è sincera, il mio corpo non libero. Perché devono i miei piedi stare nelle vostre catene? E perché dovete inseguirmi col vostro bastone? Io non ho fucile, io non ho bombe, non sono più capace di combattere. Voi portate qui la vostra croce e mi rendete muto. Il mio cuore diventa molto triste. Mi dite di chiudere gli occhi e pregare. Vostro fratello porta via la mia di terra. Io non mi sento di ascoltare altre bugie. Ho già visto tutto. È ora che spalanchi gli occhi e veda i trucchi che portate. Se mi trattate lealmente, vi farò contenti. Se mi trattate da egoisti, vi farò tristi. Sometimes I think about his life and the trouble black man see, poor black man. He must face big strife. Oh, fall down on his knees when he must get some little good. This can't be a fool. I give my blood and life for you, but you no remember me. My heart, my world be true. My body no be free. Why must my feet be in your chain? And you must chase me with your cane. I not get gun, I not get bomb. I know we fight no, no, no, no more. You bring your clothes and you make me down. My heart gets plenty sore. You tell me choose, my eyes can break. London, brother, leave my lands away. Guai dell'uomo nero. Tranquilla. Sorry. Ultima mezz'ora insieme a Lele Zambon, a te Maurizio. Adesso, Virginia, adesso puoi dirlo. Black Virginia. Man Trouble. Oh yeah. Oh yeah. Poeta nigeriano Dennis Osedebeyi. E adesso facciamo un poeta invece ghanese. Questa dal vivo, la suonata dal vivo. Questa la suoniamo dal vivo, si chiama Michael Day Anang. E si chiama My Africa. I love the days of long ago, great days of a virtual chastity, where one man and one beast kept close company. I love the day of long ago, the days of a virtuous chastity, where one man and one beast kept close company. I love Africa's self, unsophisticated, queerly Africa, the precious pill of the past, and all the beauty were the best in the day of long ago. But give me back dead Africa, with all the best and all the worst. Then leave me free to play new Africa, share with the charms of long ago. Yeah, give me two from faraway lands, the fertile loves of Faraday. Give me this and out of the lawless Africa, we rise phoenix like a new world Africa. I'll die for a world, a wonderful world, no other land, no east, no west. It charmed me so, my Africa. But give me back dead Africa, with all the best and all the worst. Then leave me free to play new Africa, share with the charms of long ago. Yeah, give me two from faraway lands, the fertile laws of Friday. Ok, abbiamo sentito questo pezzo, allora con sonorità non prettamente africane, Lele. No, perché sai, avevamo le influenze. Noi, le influenze, no? Sì. No. Pezzo. Però se tu ci metti una, dei bong, ci metti un po' di percussioni, poi insomma il ritmo lo puoi cambiare. È che qui stavamo usando le settime aumentate e quindi tu senti una sonorità un po' particolare, un po' da West Coast. Sì, questo costiana più che africana. Dobbiamo studiare una cosa però. Ah, innanzitutto salutiamo e ringraziamo il nostro direttore artistico Alberto Prisco, che stasera vi ha voluti qua, che ha organizzato questo evento, questo beat, e non solo beat. Lele. Beat ma non solo beat, beat ma non solo beat, bravissimo. Beat blues. Beat blues, esatto, il blues c'è dappertutto in questo. Esatto. Vi saluta anche il fotografo che ci ha lasciati poco fa, infatti l'ho accompagnato, sono sparito, però. È sparito per accompagnarlo, sì. E volevo dire anche questo, che c'è il discorso del beat, c'è il discorso del blues, ma non soltanto del blues, e ci sono delle variazioni. Questo tuo percorso, Lele, dai Roya sei passato, hai intrapreso la vicenda dei poeti americani, ma non soltanto i poeti americani, poeti africani, e poi hai proseguito con quale evoluzione, con quali intendimenti musicali? Beh, poi mi sono molto appassionato al blues, molto appassionato al blues, e prendevo i testi blues e cercavo di cambiare un po' la struttura, cercavo di fare, quindi ho fatto anche questo tipo di operazione, prendevo i testi blues e li modificavo la parte musicale. Però qua mi piace adesso andare avanti con un racconto un po' particolare, nel senso che poi io mi sono laureato in medicina e ho cominciato per un anno a fare il medico medico condotto, faccio le sostituzioni, e arrivavo in questi posti, San Martin di Lupari, C'è l'Adige, l'Onigo. E mi portavo dietro la chitarra come amica, anche perché di solito io dormivo nelle pensioni. Dottore, che ho bisogno di qualcosa. Dottore, che serve che compagnia. E allora la mia compagnia poi era solo la chitarra, quindi ero un puro proprio. Però mi piace fare sentire quei pezzetti così, che in questa solitudine la sera facevo magari, e che hanno una genuinità molto particolare. When the sun goes down, the moon will get up, and I will come to you so soon, my baby. Let me say the words I want to tell you, darling. Whisper in your ears, I need you. Oh, darling, my sweet darling, let the moon arise. Yeah, yeah, yeah, darling, my sweet darling, I'll come now. Oh, darling, my sweet darling, let the moon arise. Yeah, yeah, yeah, darling, my sweet darling, I'll come now. Poi naturalmente mi sono cominciate a nascere le figlie. Ben quattro figlie, sai Maurizio? Però, complimenti. E naturalmente quando ti nascono le figlie, cosa fai? Cominci a dedicargli delle canzoncine. Certo. Allora alla Virginia ho dedicato una canzone, Cicia Pompon. Cicia, perché lei da piccola diceva, io mi chiamo Cicia Pompon. Ma potrebbe cambiarsi, chiamarsi la Virginia, Cicia Pompon. Potrebbe essere e poi nome, quando nome è nata la Beatrice, certo. 5 anni dopo, pensa, l'ho portato a casa la Beatrice, e la Virginia aveva 5 anni e ha scritto la canzone per la Beatrice a 5 anni, testo e musica. Brava. Virginia, che poi è una canzoncina da bimbi, che abbiamo cantato un po' tutte le altre figlie man mano che nascevano. E quindi ogni figlia ha una sua canzone. Adesso è facciamo... On the Road anche questo, assolutamente on the road anche questo. È il passaggio, no? Certo. E questa è dedicata a Eleonora. La terza. Tu sei qui nel mio cuore come un angelo blu, perché il mondo lassù sei tu. Eleonora, lo sai, sei arrivata tra noi, ora il mondo qua giù sei tu. Chissà, forse un pezzo di infinito sei proprio tu, quel cosino col nasetto in su. Eleonora, tu stai, Eleonora, tu qua, Eleonora tra noi, Eleonora, tu qua, Eleonora, tu qua, Eleonora tra noi. Tu sei dentro il mio cuore, sei il mio angelo blu, tutto il mondo lassù sei tu. Eleonora, lo sai, tu sei scesa tra noi, ora il mondo qua giù sei tu. Chissà, forse un pezzo di infinito sei proprio tu, quel cosino con nasetto in su. Eleonora tu qua, Eleonora tu qua, Eleonora tra noi. Eleonora tu qua, Eleonora tu qua, Eleonora tra noi. Tu sei qui e solamente adesso sai, Eleonora, è questo il nome che tu avrai. Per la nostra Nora che ci sta ascoltando, se non è già crollata nel mondo dei sogni. Bene, non era in scaletta neanche questa, assolutamente. Bene, le scalette a Rockway. Scaletta mio padre non piacciono. Ma neanche a quelli di Rockway, a noi non piacciono. Bisognava le scalette. Sapere. Le cambiamo, io divento matto, però. Lo so, possiamo diventare matti. Se torniamo un po' prima, sì, devi pensare che la Virginia da piccolina era un po' scatenatella, mannaggia. Invece adesso no, è calmissima. Adesso no, è molto più tranquilla. E allora lei praticamente era sempre sveglia. In che ora? E allora quando tornava a casa alle 7 di sera c'era mia moglie che era pressoché distrutta. Allora io mi prendevo questa bimba in braccio e naturalmente, siccome allora giocavo ancora a calcio, facevo un po' di allenamento, quindi facevo pesi. E avevo un giradischi e c'era un 33 giri che praticamente non sono mai riuscito a cambiarlo per 3-4 mesi. È sempre quello. È sempre quello. E questa cantante, questo disco era di Sadei. Chissà come mai Virginia conosce così bene questa canzone. Chissà come mai. Space with minimum waste and maximum joy. City lights and business nights. When you request it, cut his eye for higher heights. No place for beginners or sensitive hearts. When sentiment is left to chance, no place to be any but somewhere to start. No need to ask if a smooth operator, smooth operator, smooth operator, smooth operator. Chicago, Western Maine, across the north and south to Key Largo, love says. Shadow box and double cross, yeah, need a chase. A license to love, insurance to hold. Melts on your memory and change into gold. His eyes are like angels, but his heart is cold. No need to ask, is a smooth operator, smooth operator. operator, smooth operator, smooth operator, smooth operator, smooth operator, smooth operator, smooth operator. Grande Sade, grandissimo, sì, benissimo. Io proporrei questo, Lele e anche Massimo, visto che abbiamo poco tempo, abbiamo solo un quarto d'ora, visto che la Virginia ha interpretato il pezzo di Sade, sentiamo il pezzo della Virginia, il CD della Virginia, ecco. Finalmente equilibrio, sì. Ecco, sentiamo il pezzo della Virginia e poi parliamo ancora questo ultimo quarto d'ora di altre cose che mi sono venute in mente adesso. Adesso sentiamo il pezzo della Virginia, fra poco partirà. Voi chiacchierate amabilmente. Dove l'hai composto? Ecco, mi spaventava questa domanda. Dimmi, allora non te la volevo evitarla. Volevo evitarla. Diciamo, dai, che è l'ultima più recente canzone che ho scritto e quindi mi fa piacere farvela ascoltare. Rimango un po'. Io dico silenzio. Un po' da musicista perché è una canzone molto originale. Il testo è un testo molto sentito, è un testo suo personalissimo, però dal punto di vista musicale, come giro armonico, è un giro armonico molto molto originale e quindi va elogiata particolarmente Virginia per questo suo l'ho sforzo. Pagato prima. Ah, ho capito. Okay. No, ma è vero. Bene, andiamo a sentirla. Vai. Capirò che non è il momento di parlarti. Facciamo che quando io ti cullerò nel mio mondo magico e fatato, tu fidandoti ti rilasserai in modo da poter creare simbolico equilibrio, in modo da poter restare uniti anche se fisicamente distanti. Amore mio, non senti il mio fruscio? Facciamo sempre, promettimelo, promettimelo, laddove non arriva nessuno, io so che arrivi tu, ti aspetterò, ti aspetterò. Da conservare il funambolico equilibrio, in modo da poter restare uniti anche se fisicamente distanti, all'interno degli occhi chiusi, chiuderli un'altra volta, dopo guardare. uguali o troppo opposti. Siamo come due e quelle presti. Rock. Ok, ok, abbiamo solamente 10 minuti, ma lo condensiamo con un sacco adesso di cose. Parliamo velocissimi. Velocissimi, dobbiamo dedicare un pezzo. Siamo al limite, e infatti. Siamo al limite, infatti questa è una poesia di mio padre, che io per 50 anni non ho mai preso in considerazione le poesie, di musicare le poesie di mio padre, ma guarda te, solo quelle degli altri. Mm. E poi questa poesia mi ha affascinato. E abbiamo e l'hai musicata. Sì. Smagato arriverò un giorno, arrotondo il limite della terra. Della terra. Dove essa si incurva sugli abissi, basso avrò il sole alle spalle. Sarò sull'enorme calotta di rame, un'invisibile cosa perduta, fatto ombra che s'allunga nel vuoto immensamente, immensamente. Allora penserò al tuo volto lontano, lontano, all'albero sotto il quale ricordi ci dicemmo le verdi parole. Bella, anche musicalmente molto bella, molto forte. Abbiamo parlato di papà, adesso parliamo di mamme. C'è un famoso pezzo, famosissimo, che John Lennon scrisse per sua madre. Maurizio, ma tu sei non informato? No. Adesso Massimo ce l'ho. Poi c'è una sorta di magica telepatia. Non si sa come. Non si sa perché. All for what I say is meaningless, but I say it just to reach you, Julia. Julia, Julia, ocean child calls me, so I sing a song of love, Julia. Julia, seashell eyes, windy smile calls me, so I sing a song of love, Julia. Air of floating sky is shimmering, glimmering in the sun. Julia, Julia, it's morning moon, touch me, so I sing a song of love for Julia, Julia, Julia. Questa era la meravigliosa Giulia. Questa è la meravigliosa Giulia. Adesso c'è un altro pezzo però dedicato a tua mamma. Dedicato a mia mamma, e io avevo fatto la musica, poi quel giorno di pioggia. Mia mamma comunque ci ha lasciato a 92 anni, quindi non era un giorno proprio di tristezza, no. Era un giorno di quasi di riappacificazione con l'Eterno. Eccola qua. Dormirá. Siamo in chiusura, signori. Eh sì, siamo, Maurizio, abbiamo finito. Eccoci al volo. Allora, questa sì. era la canzone per la nonna Anita, scritta da la melodia da Papa Lele, e le parole le ho scritte io. E c'è anche Beatrice, che è la nostra seconda sister, vero? Che è con noi in questa canzone. Adesso siamo velocissimi. Concludiamo con una canzone che invece adesso dalla famiglia arriva all'amicizia, no? Arriviamo agli amici, abbiamo coinvolto tutti, mamma, papà, sorelle. Allora, dobbiamo solo sottolineare una cosa, i tuoi appuntamenti di domani. Noi suoniamo il 3 a Ponte San Nicolò, c'è mi sembra il 2, domani sera. Domani sera a Ponte San Nicolò. Domani sera a Ponte San Nicolò. Voi come Big Beat e voi... io Alessandro Galleani come Acoustic Mood. Venerdì 3, hai ragione, venerdì 3, domani giovedì. Venerdì. Cena sociale, se no mi tirano. Venerdì 3. In realtà, tra pochissimo al parco siamo vita, già al 2, quindi domani. Domani, cioè, al parco se dobbiamo vita. Proprio fare. Venerdì 3 al Parco Vita a Ponte San Nicolò. Benissimo. Ringraziamo Massimo Favaretti, Virginia, grazie, e Lele grazie Zambò. A voi, grazie. E grazie soprattutto a voi, Sergio, che ci ha guidato verso grazie mezzogiorno. Grazie Sergio, grazie Maurizio. Vediamo la buonasera a tutti. Buonanotte a tutti con I Got a Frame. Buonanotte a tutti e grazie. Ciao, grazie. When you're down in trouble and you need a helping hand and nothing is going right, close your eyes and think of me and soon I will be there to brighten up even your darkness nights. You just call out my name and you know wherever I am, I'll come running to see you again. Winter, spring, summer or fall, all you got to do is go and I'll be there. Yes, I will. You've got a friend. If the sky above you shouldn't dark and full of clouds, and that old north wind should begin to blow, just keep your head together and call my name aloud, and soon I'll be knocking upon your door. Don't you know you just call on my name and you know wherever I am I'll come running to see you again. Don't you know winter, spring, summer or fall, all you got to do is go and I'll be there somewhere. Ain't it good to know that you got a friend when people can be so cold? They hurt you and desert you, and will they check your soul if you let them? Oh, don't you let them. You just call on my name and you know wherever I am I'll come running to see you again. Don't you know what winter, spring, summer or fall, all you got to do is go and I'll be there. Yes, I'm you got a friend. You got a friend. You got a friend. You got a friend.